Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti, finalmente una giornata di campionato davvero interessante. No, non fatevi illusioni, Siena ha vinto ancora, anche se ha fatto una fatica pazzesca con le scorie dell'Eurolega ancora addosso, a Ferrara, però sempre in testa fino al 71-63 finale, naturalmente per i campioni d'Italia. Più che altro, altrove abbiamo visto partite davvero all'ultimo respiro, compresa quella bellissima che tra poco vi racconto, tra Biella e l'Ottomatica Roma. Dopo 5 sconfitte consecutive, Biella torna a vincere 85-80 con un grande protagonista italiano, che è un ragazzino di Sassari, Massimo Chessa, che ha segnato i punti decisivi e che ha giocato una grandissima partita nel complesso. Al posto di Guillermo Diaz, americano, che non c'era. Rapidamente altri risultati: Cantù vince in trasferta di 1 a Teramo 73-72, quindi Caserta vince a Pesaro 89-81. L'Aira Avellino batte anche Varese 76-67. Da qui partiamo con Salvatore Miano, che magari anche con un ospite. Buonasera. Buonasera a voi tutti da Avellino. Partita verità quella di stasera tra Avellino e Varese, con gli Irpini chiamati a dare continuità ai propri risultati e Lombardi invece che cercavano in terra ospite punti importanti per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. La paura però l'ha fatta un po' da padrone, del cinismo dei due punti ha fatto il resto. Sia ben chiaro però una cosa: la Cemberio non ha nulla da rimproverarsi, giunta in campagna con Galanda, Tusek e Cotani, 300 presenze per lui in Serie A in precarie condizioni, è stato a lungo in avanti, per la precisione 33 minuti, con un AEC di 12 punti, fin quando l'AIR si svegliava dal torpore grazie al cuore, sostanza e concretezza dei suoi uomini, toglieva il freno a mano, agguantando dapprima i biancorossi e chiudendo addirittura in scioltezza la partita. Tra gli artefici della rimonta, oltre ai soliti, merita una lode particolare Riccardo Cortese, per i padroni di casa, in naftalina per un po' di tempo e che si è fatto trovare pronto al momento giusto con due tiri pesantissimi che hanno dato il là al successo di Avellino. Accanto a me c'è Luigi Ercolino, che è il figliolo del padrone Vincenzo, nonché amministratore della formazione avellinese. Ercolino, dunque, proprio non è stata una passeggiata quella di stasera per Avellino. Ah, sì, sicuramente abbiamo sofferto più del previsto, poi giocando per 30 minuti circa non una bella palla a canestro, poi finalmente ci siamo ricordati di essere Avellino, di avere più talento, di avere più squadra, e siamo riusciti a girare una partita che si era messa non bene dall'inizio. Vittoria quindi alla fine sofferta, e facciamo i complimenti comunque a Varese per aver disputato veramente un'ottima gara. Ecco, dicevamo, a questo punto gli obiettivi, due punti importanti, continua per Avellino il sogno, diciamo, dei playoff, di entrare a pieno diritto nei playoff. Cambierà qualcosa oppure va bene così in questo momento? Dobbiamo continuare a giocare la nostra pallacanestro, dobbiamo restare con i piedi per terra perché il campionato è ancora lungo, e giocarci partita dopo partita, perché proprio la partita di stasera ci ha dimostrato quanto è difficile il proseguo in questo campionato. Speriamo di mettere in cascina quanto prima altri 2-4 punti, poi senza la pressione della corsa salvezza, che è il nostro obiettivo principale, cercheremo di guardarci intorno, guardarci dietro e vedere cosa possiamo dire a questa stagione. Benissimo, grazie Salvatore Miano con Ercolino Junior. Grazie davvero a questa vittoria di Avellino, che insomma ha vissuto un periodo un po' difficile, ma poi si è abbondantemente ripresa. Dario Ricci, buonasera, dacci la classifica. Buonasera, allora, classifica che vede il Montepaschi in testa, 40 punti, a quota 28 la Pepsi Caserta, poi a 26 Montegranaro e Milano che ha staccato chiaramente la Virtus Bologna, a quota 24 raggiunta proprio da Avellino, 22 punti per Cantù, a quota 20 invece Roma e Treviso, 18 l'Angelico Biella, 16 Teramo e Varese, 14 Pesaro e Cremona, 10 punti per Ferrara, meno 8 per Napoli. Che, se non ho sbagliato i conti, da stasera dovrebbe essere già retrocessa matematicamente, ma sono solo questioni di inutili statistiche. E poi si porterà dietro anche il meno 20 del prossimo campionato. Quindi... Quale? Dove? No, nel dubbio sarà rovinato anche quello. Insomma. Esatto. Parliamo di pallacanestro reale e seria. Andando a Pesaro, dove dunque battaglia per i playoff, corsa dei playoff apertissima, mi pare. credo possa considerarsi iscritta anche Biella dopo aver battuto Roma, non più certamente Pesaro, che invece è stata raggiunta da Cremona, e semmai la Scavol Spar deve guardarsi dietro. Mirko Facenda, buonasera. Sì, buonasera a voi. Scavolini Spar che già da qualche partita che deve guardarsi dietro e che dopo la vittoria ottenuta a Cantù domenica scorsa, oggi con un calcio ha ribaltato il secchio pieno di latte. La solita Scavolini Spar, quella che per 2-3 volte ha avuto anche 11 punti di vantaggio, ma come al solito non è riuscita a chiudere la gara. Chiaramente poi Caserta è venuta fuori la grande con un Jumaine Jones davvero da favola, 34 minuti, 23 punti, 1 su 1 da 2, 7 su 8 da 3 punti, 8 su 9 al tiro totale, 4 rimbalzi, 4 falli fatti, 3 subiti, 2 recuperi, 1 persa, 3 assist, una stoppata data, 28 di valutazione, davvero un Jumaine Jones da favola. Ma Caserta è venuta fuori alla distanza, ripeto, la Scavolini Spar non ha avuto il killer instinct e alla fine ha pagato. Bene il ritorno di Timmy Bowers in maglia casertana, 31 minuti, 10 punti per lui, 3 su 5 al tiro totale, 6 rimbalzi totali, 5 palle perse ma ben 3 assist ed è il secondo per quanto riguarda la valutazione generale di Caserta. Per la Scavolini Spar il solito grande Michael X, 21 punti, 9 su 16 al tiro totale, 4 rimbalzi totale, 4 falli subiti, 24 di valutazioni. Marquis Green ha fatto la sua partita sostanzialmente, anche se poi nel finale, come accade ormai da qualche partita a questa parte, qualche pallone va sempre in tribuna. Una Scavolini Spar che ha pagato a rimbalzo offensivo dove ha concesso 13 rimbalzi, ha pagato in difesa dove ha concesso 89 punti e ha pagato anche a livello offensivo, visto che ormai il gioco è monocorde, è sempre quello. Troppe regole forse per la squadra di coach Luca Dalmonte e di conseguenza ancora una sconfitta meritata, direi, e onore alla Pepsi Caserta e a Pino Sacripanti che tornava all'Adriatica Arena da ex e che si è portata a casa i 2 punti. E magari un pizzico di vendetta, visto che il rapporto con Pesaro era finito non proprio benissimo, mi pare. Grazie a Mirko Facenda, noi diamo un'occhiata, diciamo qualche cosa sulle altre partite, a cominciare da Cantù che torna a vincere a Teramo 73-72. Allora finisce così, Poeta segna canestro che sembra quello della vittoria 72-65. Ci avviamo verso l'ultimo minuto, ma c'è Marco Svili che segna 2 volte da 3 punti. Marco Svili migliore tra i canturini, 72-71, si arriva agli ultimissimi secondi, il contestato Jerry Green non è ancora entrato nelle grazie del Pianella, è suo il canestro della vittoria. L'ex Ryan Hoover sbaglia l'ultimo tiro, quello della disperazione, e Cantù torna a vincere. Questi numeri, Dario. Numeri che vedono protagonista proprio Marco Svili per quanto riguarda i canturini, 23 punti, 26 di valutazione. Per quanto riguarda le percentuali, 2 su 4 da 2, 5 su 9 da 3 punti, 4 su 5 liberi e anche 4 rimbalzi e 4 assist per il canturino, sostenuto poi dall'Ideca, 10 punti in 33 minuti, 4 su 8 da 2, nessun tentativo da 3 e 8 rimbalzi per l'Ideca. E Cantù che poi a conferma dell'impianto di gioco suddivide poi il resto del bottino con 8 punti per Jerry Green, 7 per Orter, 7 per Mikoz, 6 punti per Mazzarino e 8 per Leunen, tutti pericolosi quindi canturini nella metà campo offensiva, mentre Teramo si affida soprattutto a un grande Valerio Amoroso, finalmente protagonista, 24 punti in 28 minuti, 4 su 7 da 2, 5 su 9 da 3 punti, 3 rimbalzi per un 20 di valutazione, protagonista anche, è capitato raramente finora Carlo in campionato, Giuseppe Poeta in attacco, stranamente 15 punti, stavolta 35 in 35 minuti di gioco, 3 su 7 da 2, 2 su 3 da 3, 3 su 5 ai liberi, però 5 palle perse, solo parzialmente riscattate dai 3 assist. Con il canestro dell'illusione che, come vi ho raccontato. Altra partita bellissima trasmessa da Sky nel pomeriggio, la vittoria di Biella su Roma. Allora Biella si presentava a questa partita con 5 sconfitte consecutive sulle spalle, senza un americano perso in settimana, cioè Guillermo Diaz si è fatto male venerdì e non era in campo. Chessa è andato in quintetto base, sempre avanti Biella, poi rimonta Romana e nel finale Ricky Minard costruisce da 80 a 75 per Biella, 5 punti consecutivi con una palla recuperata, una tripla, un gran canestro. Si arriva all'80 pari e lì chi vince la partita? Il più giovane, il sardo, il piccolo Massimo Chessa. 3 punti, poi un tiro libero segnato e poi Aradori che sul fallo di Roma chiude la gara. Peraltro male Aradori, soprattutto al tiro. Davvero una partita di quelle che insomma vorresti vedere molto spesso e che non così spesso vedi nel nostro campionato. Poi sentiamo anche Chessa, dare i numeri. Partiamo proprio dal protagonista, 19 punti in 26 minuti per Chessa, 4 su 8 da 3 punti, anche 4 rimbalzi e poi, come ricordavi Carlo, le azioni decisive per un bel 19 di valutazione. Ancora meglio la prestazione di Joe Smith, 17 punti in 35 minuti per un 29 di valutazione, poi 12 punti di Pietro Aradori con un 3 su 9 da 2, 0 su 5 da 3, quindi deficitario le percentuali al tiro, sì, di Aradori. Per quanto riguarda Roma invece, 16 punti per Dragicevic, che si sta confermando come acquisto azzeccato in una stagione veramente travagliata per i giallorossi, 31 in 31 minuti, 4 su 6 da 3 punti, 12 punti invece per Giachetti e poi, come ricordavi, 12 punti anche per Minarda, che non sono bastati però ai capitolini per portare a casa i 2 punti. No, pazzesca la partita di Garri oggi, come dicevi, 15 punti, percorso netto al tiro con 5 su 5, 12 rimbalzi, 28 di valutazione. Sempre una cosa quando pazzesca. Vede Roma, tra l'altro, da ex. Quando vede Roma, è anche vero che ha messo in fila una serie di buone partite Luca Garri, ma grandissima anche la partita di Joe Smith, 10 assist. Sentiamo Chessa cosa dice. Partirei dalla grande prova di squadra che abbiamo fatto oggi. Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo avuto qualche problemino negli ultimi minuti, però siamo riusciti a far canestro con l'ultima azione e poi abbiamo recuperato palla grazie alla difesa, quindi grandissima vittoria. È facile giocare con dei giocatori come che fanno parte della nostra squadra perché ti mettono in ritmo, oggi l'hanno fatto, quindi abbiamo passato la palla, grande circolazione, avanti così. Gli ultimi 2 mesi non sono stati facili. Ci stavamo allenando bene ma non riuscivamo a vincere. Oggi abbiamo fatto una grandissima prova di squadra, ci siamo allenati bene tutta la settimana, quindi grandissima vittoria. E questo Chessa con Sky, circolazione di palla, giocatore ti mette nel ritmo, bravo tutta la squadra, però alla fine la manina era la sua, quindi parla al plurale, però vi assicuro che è stato il protagonista di questa vittoria. Sostituiva Guillermo Diaz e l'ha fatto con 19 punti e con quelli della vittoria. Palla spicchi. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera. Ciao Flavio, oggi sembrava vero, con Siena, oggi sembrava quasi vero con Siena che perde almeno numericamente di poco, con Ferrara penultimi in classifica, con bellissima Biella Roma e bellissimo Chessa, bellissima partita di Garri, insomma Cantù che vince di un punto a Teramo con Marco Svili che segna 2 canestri in fila da 3 punti per ribaltare l'esito di questa gara. Sembrava vero Flavio, cosa vuoi che ti dica? Sì, sembrava vero, pescherei Chessa tra tutte queste cose che hai detto e citato perché non è una partita casuale, nel senso che non sarà un giocatore da 19 punti di media, naturalmente non lo è ancora, probabilmente non lo sarà mai, però ha dentro quello che non si può insegnare, tutto il resto si può insegnare e invece quello che ha dentro Chessa non ce l'hanno dentro tutti. Sì, guardia old fashion, non potente fisicamente, con un tiro che spacca, una discreta faccia tosta, anche se poi parla al plurale, questo mi piace già meno perché i punti che della vittoria li ha messi lui, bisognerebbe anche autoriconoscerselo qualche volta. Decisamente, però è anche giusto fare un passo alla volta e questo ha la mentalità, anche se parla al plurale, per arrivare, nonostante da un punto di vista di copertina sembra un libro non da Serie A e invece se lo scorri dentro le pagine, ripeto, c'è dentro qualcosa davvero. Cantù che torna a vincere facendo una fatica pazzesca, ribaltando appunto come dicevo prima nel finale la partita di Teramo che sembrava già persa, prima raccontavo il canestro di Poeta 72-65, Marco Svili 2 triple, Jerry Green contestato dal Pianella e alla vigilia del derby domenica prossima a mezzogiorno contro Milano di cui tra poco parliamo, però Cantù che rialza la testa è un'altra inversione di tendenza da sottolineare. Sì, segnale importante, e direi, anche se non l'ho vista per lo svolgimento e per il momento, il tipo di partita, la classica partita che lo scorso anno Teramo non avrebbe mai perso e che quest'anno invece ha perso. E se cominciamo a fare la somma, penso per esempio a quella contro Montegranaro, che è costata la finale di Coppa Italia, che ha dato il là a quell'incredibile serie della Sigma Coatings, penso sempre di più che ci sono delle stagioni che nascono in un certo modo e delle altre che nascono esattamente al contrario. Dove va Montegranaro? In questo momento va dove vuole, perché la fiducia è veramente sconfinata, perché non sente la pressione, perché ha il gusto di giocare insieme e perché soprattutto ha una superiorità a rimbalzo su tutte le altre squadre del campionato onestamente imbarazzante. Prima di questa giornata aveva il 54% dei palloni catturabili catturati sotto i tabelloni, la seconda è appena oltre il 52%. Quando cominci a giocare 5, 6, 7, 8 extra possessi regolarmente in più rispetto agli avversari, grazie a Ivano, Brunner e non solo, e beh, quello è ulteriore fiducia. Naturale. Arriviamo a Milano, oggi eri al forum a raccontare per Sky la partita dell'Olimpia contro la Virtus Bologna, accanto al uno dei tuoi abituali compagni di viaggio, che è il nuovo team manager della nazionale italiana, cioè Riccardo Pittis. Clima strano all'interno del forum, fischi all'inizio per Milano, fischi soprattutto per Bucchi, sono comparsi cartelli Bucchi vattene come funghi lungo tutto il forum, con una buona affluenza peraltro, i 20 ragazzi della curva di Milano che invece stanno dalla parte dell'allenatore, insomma un clima molto strano. Milano che ha versato in campo nei primi minuti tutta la sua rabbia, poi è riuscita ad acciuffare la partita per i capelli. Milano che di nuovo cambia pelle, cambia assetto, cambia quintetto, cambia equilibri. Con che impressioni sei tornata a casa dal forum? Con che riflessioni? Sul clima non posso aiutarti tanto, perché con le cuffie addosso, come ben sai, il clima non lo senti. Ho visto i cartelli, per la verità poi li ho visti solo alla fine, nella clip di chiusura, non me ne ero neanche accorto, mi avevano detto che ci sarebbe stata una contestazione. Siamo in un paese libero, ognuno assolutamente può avere la sua opinione. Io non credo che si possa essere equipaggiati per dire non Buchi o Gentile, ma allenatore X vattene o allenatore X stai, perché siamo all'esterno. Però ripeto, siamo in democrazia, ognuno esprime il proprio parere. Quello che posso dirti è che Milano ha una dote e un limite. La dote è quella che tende a giocare tutte le partite, tende a non mollare mai, tende a metterci qualche cosa a livello di squadra in generale. Il limite è che ancora una volta non è chiaro. Se oggi uno fosse stato catapultato da un altro pianeta e gli fosse stato chiesto di stabilire una gerarchia all'interno di quello che ha visto a Milano, penserebbe che Becirovic probabilmente sia qui dall'inizio della stagione, se non alla terza o quarta stagione con questa maglia, e potrei andare avanti a lungo. Mancinelli ha avuto un periodo in cui era intoccabile, adesso mi sembra toccabilissimo, e la sensazione è che tra due settimane le cose saranno ancora diverse, e che non può essere solo un problema dell'allenatore, non può essere un problema che non coinvolge l'allenatore, ma mi sembra molto più un fatto di filosofia in generale. Milano ha vinto di poco, Roma ha perso di poco, però continua a vedere molti punti di contatto tra queste due situazioni. Flavio, a qualche giorno dall'eliminazione dell'Eurolega di Siena, aiutaci a capire qual è il sugo di tutta la storia. Chi parla di differenza di budget, chi differenza di roster, differenza di campionato, che noi, ti ricordi, dicevamo ma forse questo può aiutare perché è simile ai campionati greci di quando eravamo ragazzi, dove poi le squadre greche effettivamente in Europa, avendo un campionato, un cammino più facile, dominavano, insomma. Anche se poi Dario, abbiamo fatto i conti e scopri che in questa stagione Panathinaikos ha perso una partita, il CSKA ha perso una partita, il Barcellona ha perso due, non so come, per sbaglio, ai confini dell'impero. La situazione in testa è similare come numero in tutti i campionati, Flavio? Quella del campionato sicuramente è una possibile teoria, non la sposo, non c'è alcuna evidenza, e comunque si gioca con lo stesso pallone in canestro alle stesse altezze, 5 contro 5, quindi poi campionato o non campionato, budget o non budget, questo o quell'altro, si gioca, questa almeno è la teoria di tutte le squadre veramente forti, direi è la teoria di Siena che non ha mai cominciato un'Eurolega dicendo io non ho la possibilità di vincere questa Eurolega, l'ha sempre cominciata per vincerla. c'è andata molto vicina, secondo me, molto vicina alla Final Four di Madrid, perché avrebbe avuto una chance importante se fosse riuscita a tenere quei 20 punti di vantaggio col Maccabi. Se l'avesse vinta, sempre sarebbe stato un semi-accedente, nel senso che non aveva teoricamente il budget, la profondità, la lunghezza, la tradizione, eccetera, eccetera, per giocarsela con i Panathinaikos e l'Olympiakos della situazione. Ci ha provato, quella volta ci è andata molto vicino, lo scorso anno ci è andata abbastanza vicino, quest'anno ci è andata meno vicino. Credo che fosse lecito al termine della passata stagione pensare: eravamo 1-1 col Panathinaikos, ce la siamo giocata nelle due partite a Siena, avevamo Lavrinovic non al massimo, non smontiamo la squadra perché non c'è una prova dopo quel grande 2008, neanche dal 2009 che non possiamo vincere, adesso direi che la prova c'è, questo gruppo ha fatto tutto quello che poteva fare, punto, è lo sport. In settimana, Flavio, sappiamo le uscite di Minucci, sappiamo che questo è l'ultimo giro, questo finale di campionato è l'ultimo giro per questa Siena. McIntyre al 90% se ne andrà e l'hanno detto loro, cambieranno le facce, cambieranno i giocatori, non cambierà la filosofia. Questo secondo te rende Siena minimamente attaccabile da chi che sia? Per questo campionato intendi? Sì. Sì, teoricamente al momento praticamente la risposta è no. Oggi nessuna squadra ha dimostrato di poter attaccare Siena, però questa situazione rende teoricamente Siena attaccabile. Non è un problema di Siena, nel senso che Siena più o meno sono convinto che sappia al centesimo quasi quello che può dare. Bisogna vedere se qualcuno ha la mentalità per provare ad andarla a disturbare. Finora nessuno ha dimostrato questo tipo di mentalità. Per chiudere, dal Monte Capobianco, assistenti di Pianigiani, Pitti Team Manager, oggi ufficializzati i nuovi assetti azzurri. Ufficializzati, direi che è uno staff al di sopra di ogni sospetto. Sono abbastanza incuriosito nel sentire un po' serpeggiare la teoria che Pianigiani, siccome Siena è uscita dall'Eurolega, è un pessimo allenatore, così come ero incuriosito dal sapere che era invece un infallibile perché ha vinto il 95% delle partite in queste stagioni. Io credo che lo staff sia buono, la squadra sia buona, però senza il tempo, senza il lavoro, e lo ha dimostrato Pianigiani a Siena in primis, non vai da nessuna parte. Anche qui prima guardare, poi vedere, poi mantenere equilibrio e poi capire che è questione di pallacanestro e anche di un pallone che a volte va dentro per un motivo strano e fuori per un motivo altrettanto strano, oppure capiti nel girone sbagliato, sì, rispetto ad altri, eccetera, eccetera, eccetera. Sentiamo venerdì, Flavio, grazie. Sì signore, buona serata. Buona serata, grazie a Flavio Tranquillo, grazie a Dario Ricci. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Domani alle 2 c'è Gigi Garanzini. Ci sentiamo per l'appunto venerdì con Palla Spicchi dalle 2 alle 3.